Pronti per un nuovo tuffo nella conoscenza. Oggi ci addentriamo nel mondo dell'intelligenza artificiale, Ah sì? ma con un focus particolare, l'approccio dell'Università di Bologna. Interessante. Non parliamo solo di algoritmi e codici, Giusto. ma di come una delle università più antiche al mondo sta affrontando l'IA, Capisco. sia a livello di ricerca che di insegnamento. Ah, già. Preparatevi a scoprire come l'Alma Mater sta plasmando il futuro dell'IA in modo etico e responsabile. Sì, esatto. E la cosa affascinante è che non si tratta solo di tecnologia. Certo. Avremo modo di approfondire documenti ufficiali e informazioni dal sito web dell'università per capire come AIA Perfetto. stanno cercando di plasmare questo futuro dell'intelligenza artificiale. Bene, e questa policy per un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale generativa dell'Università di Bologna Sì. è il cuore della nostra esplorazione. Esatto. È un documento ricco di spunti che delinea i principi chiave Ah sì. per un'IA al servizio dell'uomo. Già, e questi principi sono davvero il punto di partenza per capire l'approccio dell'università. Certo. La centralità della persona, ad esempio, è fondamentale. Assolutamente. Non si tratta di sostituire l'uomo con la macchina, ma di usare l'IA per potenziare le nostre capacità. Per Quindi niente scenari apocalittici alla Terminator. fortuna no. L'idea è che l'IA debba essere uno strumento Ok. che ci aiuta a pensare meglio, a Certo. essere più creativi, a prendere decisioni più informate. Giusto. L'uomo resta al centro del processo decisionale. E questo ci porta al principio di onestà e trasparenza. Sì. Immagino che in ambito accademico sia fondamentale. Assolutamente, ogni volta che si usa l'IA bisogna dichiararlo apertamente, che Certo. si tratti di una ricerca scientifica o di un elaborato studentesco. La trasparenza è fondamentale per mantenere l'integrità accademica. Quindi niente trucchi per far passare un testo generato dall'IA come farina del proprio sacco. Esattamente, la policy è molto chiara su questo punto e poi c'è il principio di responsabilizzazione. L'IA è uno strumento potente, ma la responsabilità di come viene utilizzato ricade sempre sull'uomo. Cioè, non possiamo dare la colpa all'algoritmo se qualcosa va storto. Esatto, dobbiamo essere consapevoli che l'IA può commettere errori e sta a noi valutare criticamente i risultati che produce. Sì, è già. Non è una bacchetta magica, ma uno strumento che va usato con intelligenza. E l'accuratezza come si inserisce in questo contesto? Beh, è strettamente legata alla responsabilizzazione. No. Dobbiamo essere in grado di verificare l'affidabilità dei risultati prodotti dall'IA. Certo. Non possiamo fidarci ciecamente, soprattutto quando si tratta di argomenti complessi o delicati. Quindi occhio critico sempre acceso. Esatto. E infine il rispetto dei diritti dell'ambiente, un tema che va ben oltre l'ambito accademico, direi. Certo, l'IA ha un impatto su molti aspetti della nostra vita e l'Università di Bologna lo riconosce. La policy sottolinea l'importanza di utilizzare l'IA nel rispetto della privacy, della proprietà intellettuale e in modo sostenibile per l'ambiente. Insomma, un approccio a 360 gradi. Ma come si traduce tutto questo nella pratica? La policy fa una distinzione interessante. Ah sì. Tra uso sostanziale e uso non sostanziale dell'IA. C'è una distinzione chiave per capire come l'università regolamenta l'uso dell'IA. Oh, che lo fa Sostanziale studiare. si ha quando l'IA genera un contributo originale come un'idea innovativa per una ricerca o la stesura di buona parte di un articolo scientifico. Quindi quando l'IA fa un vero e proprio lavoro creativo. Esattamente, mentre l'uso non sostanziale è quando l'IA viene usata come supporto per attività più meccaniche, tradurre un testo, raccogliere informazioni, organizzare dati. Un po' come un assistente super efficiente, insomma. Sì, l'IA ci aiuta a svolgere compiti in modo più rapido e preciso, ma non sostituisce il nostro pensiero critico e la nostra capacità di giudizio? Interessante questa distinzione. Ma come si applica concretamente ai docenti, ai ricercatori e agli studenti? Immagino che ci siano sfide e opportunità diverse per ciascuno. Giusto. E questo ci porta dritti al cuore della prossima parte del nostro viaggio. Vabbè, allora rimaniamo sintonizzati Restate con noi. per scoprire di più. Sì, tra poco. Asto. Riprendiamo il nostro viaggio nel mondo dell'IA all'Università di Bologna. Sì. Abbiamo visto i principi chiave della policy, ora proviamo a immaginare come questi si traducono nella realtà di docenti, ricercatori e studenti. Si incuriosisce capire come l'IA può cambiare concretamente il modo di insegnare e di imparare. Partiamo dai docenti, come si integra l'IA nella didattica. Beh, la policy incoraggia i docenti a usare l'IA per creare esperienze di apprendimento più coinvolgenti e personalizzate. Ah, ok, interessante. Pensiamo a un corso di storia, l'IA potrebbe permettere agli studenti di esplorare virtualmente un sito archeologico, Ah, sì. di toccare con mano reperti antichi in 3D, di avere un feedback personalizzato in base al loro livello di apprendimento. Un modo completamente nuovo di vivere la storia. Però mi chiedo, l'IA non rischia di sostituire il ruolo del docente? Insomma, avremo professori robot. Assolutamente no. La policy è chiarissima su questo punto. Ah, meno male. L'IA è uno strumento al servizio del docente, non un suo sostituto. Il docente resta la figura centrale responsabile della progettazione del corso della scelta dei contenuti della valutazione degli studenti. Quindi l'IA può liberare il docente da compiti ripetitivi come la correzione di test a risposta multipla e dargli più tempo per dedicarsi all'interazione con gli studenti, al dibattito, alla creazione di lezioni stimolanti. Esattamente, l'IA può diventare un alleato prezioso per rendere la didattica più efficace e personalizzata. Sì. E questo vale anche per la ricerca. Ecco, a proposito di ricerca, in quali ambiti l'IA sta avendo un impatto maggiore? Direi che l'IA sta aprendo nuove frontiere in quasi tutti i campi. Wow! Dall'analisi di dati medici per la diagnosi precoce di malattie alla creazione di modelli per la previsione dei cambiamenti climatici fino allo studio di nuovi materiali in ingegneria, le possibilità sono infinite. Sembra quasi fantascienza. Ma concretamente quali strumenti usano i ricercatori? Beh, ci sono algoritmi di machine learning per l'analisi di grandi quantità di dati, sistemi di deep learning per la creazione di modelli predittivi e software per la simulazione di fenomeni complessi. A Bologna, ad esempio, al Dipartimento di Informatica si sta lavorando con l'IA per sviluppare sistemi di guida autonoma per veicoli. Quindi l'IA non è solo teoria, ma anche tanta pratica. Esatto. Però immagino che ci siano anche dei rischi, ad esempio il rischio di ottenere risultati imprecisi o di usare l'IA in modo poco etico. Certo, i rischi esistono e la policy dell'università li affronta in modo chiaro. Oh. I ricercatori sono tenuti a usare l'IA in modo responsabile, verificando l'affidabilità dei dati e degli algoritmi. Certo. L'IA non è un oracolo, ma uno strumento che va usato con rigore scientifico e attenzione alle implicazioni etiche. Quindi di nuovo la responsabilità finale dell'uomo l'IA non può sostituire l'esperienza del ricercatore, la sua capacità di analisi, il suo senso critico. Esatto, l'IA può essere un potente acceleratore della ricerca, ma non può sostituire la mente umana, e questo vale anche per gli studenti. Ecco, parliamo degli studenti, come può l'IA aiutarli nello studio? Beh, l'IA offre tantissime opportunità. Pensiamo a sistemi di apprendimento personalizzato che si adattano al livello e allo stile di apprendimento di ogni studente. Ah, interessante. Oppure a strumenti per la traduzione di testi, per la ricerca di informazioni, per la creazione di mappe concettuali. Sì, certo. L'IA può rendere lo studio più efficace e stimolante. Sembra davvero un grande aiuto. Ma non c'è il rischio che gli studenti usino l'IA per barare? Per farsi scrivere i compiti o le tesi. Certo, il rischio esiste, ma la policy dell'università lo affronta con fermezza. Oh, Onestà intellettuale è un valore fondamentale e l'uso dell'IA non può diventare una scorciatoia per evitare lo studio e l'impegno personale. Quindi niente scorciatoie facili. Ma come si fa a controllare che gli studenti usino l'IA in modo corretto? La policy prevede diverse misure, la formazione degli studenti sull'uso responsabile dell'IA, linee guida chiare per l'utilizzo dell'IA nei diversi contesti accademici e sistemi di controllo per prevenire abusi e plagi. Mm. L'obiettivo è creare una cultura della responsabilità nell'uso dell'IA a partire dai banchi dell'università. Insomma, l'Università di Bologna si sta impegnando a fondo per integrare l'IA in modo etico e responsabile a beneficio di tutta la comunità accademica. Sì, l'obiettivo è quello di far sì che l'IA sia una forza positiva per l'università, per la ricerca e per la società nel suo complesso. Un tema affascinante che ci porta ad approfondire ulteriormente l'impatto concreto dell'IA nella ricerca e nella didattica, pronti per la terza parte del nostro viaggio. Eccoci arrivati all'ultima tappa del nostro viaggio nel mondo dell'IA all'Università di Bologna. Abbiamo esplorato i principi, le sfide, le opportunità. Ora vorrei vedere l'IA in azione, toccare con mano il suo impatto concreto nella didattica e nella ricerca. Certo, mettiamo da parte la teoria e tuffiamoci negli esempi concreti. Immaginiamo una lezione di anatomia, gli studenti invece di studiare su un libro indossano dei visori per la realtà virtuale. Ah sì. E si ritrovano immersi nel corpo umano, osservando da vicino organi, muscoli, sistemi complessi. Un'esperienza sicuramente più coinvolgente di una lezione tradizionale. Esatto. E l'intelligenza artificiale non si limita a rendere le lezioni più interattive. Pensiamo ai sistemi di tutoring personalizzato. Certo. La TIA può analizzare il livello di apprendimento di ogni studente. Sì. E suggerire esercizi mirati, fornire feedback personalizzati, creare percorsi di studio su misura. Quindi niente, più lezioni uguali per tutti. Ognuno può imparare al proprio ritmo e con il proprio stile. Proprio così. L'IA permette di creare un'esperienza di apprendimento davvero personalizzata, massimizzando il potenziale di ogni studente. E questo vale anche per la ricerca. A proposito di ricerca, avevamo accennato all'impatto dell'IA in vari ambiti. Quali sono gli esempi più concreti di questa rivoluzione in atto? Beh, prendiamo l'ambito medico. A Bologna, presso il Policlinico Sant'Orsola Malpighi, si sta sperimentando l'IA per la diagnosi precoce di tumori, analizzando immagini radiologiche con un livello di precisione che supera l'occhio umano. Una scoperta che potrebbe salvare molte vite. Certo, l'IA sta aprendo nuove strade nella medicina, nella biologia, nella farmacologia, ma il suo impatto va ben oltre. Al Dipartimento di Fisica e Astronomia, l'IA viene utilizzata per analizzare enormi quantità di dati provenienti dai telescopi alla ricerca di nuovi pianeti e galassie. Davvero incredibile. Sembra che l'IA stia accelerando la scoperta in ogni campo del sapere. Sì, e non dimentichiamo l'impatto dell'IA sulla terza missione dell'università, ovvero la diffusione della conoscenza e il dialogo con la società. In che senso l'IA può contribuire a questa missione? Pensiamo alla creazione di piattaforme online per la divulgazione scientifica accessibile a un pubblico vastissimo, oppure a sistemi di traduzione automatica che permettono di superare le barriere linguistiche e di rendere la conoscenza accessibile a tutti. L'IA può diventare un ponte tra il mondo accademico e la società, un motore di dialogo e di inclusione. Un ruolo fondamentale in un mondo sempre più interconnesso. Insomma, il nostro viaggio nel mondo dell'IA all'Università di Bologna ci ha mostrato un panorama ricco di sfide e di opportunità di innovazione. Sì, e ciò che emerge con forza è l'approccio responsabile dell'alma mater. La volontà di mettere l'IA al servizio dell'uomo e del bene comune, senza mai dimenticare l'importanza dell'etica, della trasparenza, della centralità della persona. Un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro che ci invita a guardare all'IA non come una minaccia, ma come uno strumento potentissimo per migliorare la nostra vita e il nostro mondo. Esatto. E con questo invito alla riflessione si conclude il nostro Deep Dive. Vi ringraziamo per averci seguito in questa esplorazione e vi invitiamo a continuare ad approfondire il tema dell'IA con curiosità e spirito critico. Arrivederci e a presto con nuove immersioni nel mondo della conoscenza.